America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Boston. Mario Platero, ero venuto qui, in questa capitale del Northwest, per fare un giro a Harvard, all'MIT, per cercare di capire dove si sta muovendo la tecnologia nel nostro tempo. In effetti il giro l'ho fatto, ma per la trasmissione di oggi, vince la cronaca. Sentiamo. Capitol Hill Senate Republicans have just delayed a vote on their health care bill until after the 4th of July recess because they just don't have the support. Ecco, avete sentito questo newscast, la riforma sanitaria, grande battaglia su cui Donald Trump voleva giocarsi il tutto e per tutto in Senato, non andrà avanti. Mancano i numeri e dunque tutto bloccato, se ne riparlerà dopo il 4 di luglio. E dunque un giorno una buona notizia, quello dopo due pessime news. Ricorderete che lunedì la Corte Suprema aveva deciso di ascoltare il caso del decreto di Trump sul ban dell'immigrazione e aveva anche autorizzato certi aspetti di questo decreto. E dunque Trump ha festeggiato. Ieri invece questa doppia stangata che ha colpito Washington, anzi la Casa Bianca e i repubblicani da una parte, e la Silicon Valley, il polmone politico dunque è quello tecnologico. L'avete capito, parlo della multa da 2 miliardi di dollari che la Commissione Europea ha inflitto a Google per abuso di posizione dominante e poi per Trump, vi dicevo, doppio scivolone, perché da una parte c'è stato il blocco della legge sanitaria, ma dall'altra quasi contemporaneamente il Fondo Monetario Internazionale ha bocciato, diciamolo pure, ha bocciato la paralisi politica nella capitale che impedisce, per via delle molte battaglie, da quella per il Russiagate fino appunto alla riforma sanitaria che non va da nessuna parte, di occuparsi delle cose concrete, cioè dell'economia. E qui in effetti parliamo di una paralisi del Partito Repubblicano. Insomma, c'è una maggioranza forte in Parlamento, c'è il controllo della Casa Bianca, eppure non si riesce a sbloccare un bel nulla. E ci sono ferme la proposta di riforma fiscale, la proposta per gli investimenti infrastrutturali, un mega piano che avrebbe dovuto rilanciare grandi lavori pubblici in America creando posti di lavoro. Ma sentiamo cosa da dire il Fondo Monetario Internazionale. The International Monetary Fund has cut the US economic growth rate to 1.7%, down from an earlier predicted growth of 2%. Ecco, il fondo ha rivisto al ribasso le stime di crescita degli Stati Uniti e di fatto boccia l'agenda di Donald Trump. Ecco, devo dire, questo è un fatto abbastanza raro, cioè che il Fondo Monetario intervenga bacchettando gli Stati Uniti. In genere si occupano quelli del Fondo Monetario della Grecia, del Brasile, dell'Argentina, insomma dell'Africa, insomma di paesi che sono in difficoltà più serie. In questo caso c'è stata una revisione al ribasso delle stime di crescita degli Stati Uniti. Nel 2017 ci si attende una crescita del 2,1% contro stime del 2,3% che erano state calcolate nel World Economic Outlook appena lo scorso aprile. Anche per il 2018 è attesa un'espansione leggermente inferiore, doveva essere il 2,5% e adesso sarà circa il 2,3-2,2%. 2019 la crescita scende su una proiezione dell'1,9% e dell'1,8% per il 2020. Ecco, sono numeri questi molto diversi da quelli che aveva promesso Donald Trump. Crescita quantomeno del 4-5%, poi si era stabilizzato intorno al 3%, che poteva essere un obiettivo più realistico, un obiettivo che avrebbe portato anche sicuramente occupazione. Eppure, come vi dicevo, per ora non succede nulla ed è questo il punto. Ecco il riferimento alla paralisi politica, pur descritta in termini molto diplomatici ovviamente dal Fondo Monetario, che dice: è ormai evidente che molti dettagli della riforma fiscale, del taglio della spesa pubblica promessi dal presidente americano, non sono ancora stati decisi. Per via di queste incertezze, qui leggiamo appunto tutto quello che sta capitando attorno alla Casa Bianca, il Fondo Monetario presuppone che nulla cambi rispetto al quadro attuale. Devo dire, questa è una critica piuttosto dura. Ma passiamo all'altra stangata, quella che ha colpito Google e la Silicon Valley. Partiamo dall'audio del commissario europeo della concorrenza, Margrethe Vestager. Today the commission has decided to fine Google 2.4 billion euros for breaching EU antitrust rules. Oggi la Commissione ha deciso di punire Google con una sanzione da 2,42 miliardi di euro per aver violato le regole europee sull'antitrust. Questa multa è una multa record in materia di concorrenza. Si dice che Google ha abusato della sua posizione dominante sul mercato dei motori di ricerca, favorendo i suoi servizi di confronto dei prezzi nei suoi risultati di ricerca a svantaggio di quelli dei concorrenti. Questa è un po' la spiegazione nella conferenza stampa che ha dato il commissario europeo proprio per la concorrenza. Si tratta di una cifra senza precedenti, una cifra record per questioni di concorrenza. La sanzione più dura era stata quella di 1,06 miliardi di dollari inflitta a Intel nel 2009. Ecco, il titolo Google ha reagito. Insomma, per Google 2 miliardi di dollari sono un po' come uno starnuto, nulla di più, però c'è stata lo stesso una perdita del 2,47%. E Google come risponde? Beh, in modo rispettoso, dice, rispettosamente dissentiamo da questa decisione, siamo pronti a valutare la possibilità di ricorrere in appello. Ma a parte Google, ci sarà una reazione dell'America? Come reagirà Trump? Dire, come certamente diranno alcuni, che queste sono le prove per una schermaglia generale che prima o poi ci capiterà sul commercio non è corretto, sia sul piano tecnico che su quello politico. Per cui fare un riferimento ad esempio alle minacce che gli Stati Uniti avevano fatto di imporre delle tariffe sull'importazione di beni dall'Europa, e si era parlato anche di tariffe sulla Piaggio, non ha nulla a che fare con quello che è stato deciso a Bruxelles. Ecco, da non confondere un'altra multa che era arrivata dalla Commissione, quella per l'app, una multa straordinaria, colossale, 13 miliardi di dollari. In quel caso, parliamo dell'agosto 2016, Bruxelles aveva colpito l'app per una violazione fiscale, per aver aggirato le regole fiscali, le regole sulle tasse, per un accordo con l'Irlanda che aveva concesso un trattamento fiscale privilegiato appunto alla Apple. Quindi nulla a che fare con questioni di materia commerciale. Anche questo caso va tenuto separato, è difficile fare di tutto un'erba un fascio. C'erano stati altri casi, di nuovo, diversi, finanziari. Deutsche Bank e Credit Suisse avevano patteggiato rispettivamente 7,2 miliardi di dollari e 5,28 miliardi di dollari per la vendita poco trasparente di obbligazioni garantite da mutui subprime nel periodo della crisi. Ecco, ci sono dei contenziosi, ci sono delle situazioni in cui governi, aziende si trovano in un confronto diretto. Ma dire che quello che è successo ieri a Bruxelles sia l'anticamera di una guerra commerciale più ampia, beh, secondo me non è così. È soltanto un singhiozzo, un altro ostacolo in quello che è il difficile percorso per cercare un'armonizzazione di regole, di procedure, di abitudini in due sistemi che, per quanto simili, per quanto uniti da radici culturali comuni, restano comunque divisi dal grandissimo Atlantico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su mario24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la canzone del giorno AC/DC, Spoiling for a Fight. Boston è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!